Appuntamento al 40. Una camera sotto il terrazzo, affocata d'estate, freddissima adesso di novembre. Dalla finestra entrava l'odore morto delle foglie che cadevano dagli alberi della villa. Ma era la sola stanza dove si sentiva che qualcuno viveva veramente, forse perché Augusta vi abitava già da 3 anni e aveva il gusto della casa. Aveva portato oggetti dalla Sardegna, un tappeto a fasce rosse e verdi, diceva Augusta che a suo paese le serve li lavorano d'inverno con la lana di capra, così come la coperta del letto e quel centrino sopra il comò. Il tavolino stava in mezzo alla camera, sopra vi pendeva la lampada con un paralume verde. Quando lei era seduta a studiare, il suo grosso seno occupava lo spazio tra le due pile di libri. Soverchiava il tavolino, lo rimpiccioliva, pareva una bambina davanti ai suoi giocattoli. Studiava lettere e dicevano che fosse di 10 anni in ritardo con gli esami. Le più giovani la chiamavano la zitella. Per terra, attorno a una larga foglia di lattuga, stava la testuggine che Augusta aveva battezzata Margherita. Era in autunno. S'avvicinava l'epoca in cui si nascondeva sotto il comò e là, in letargo, dormiva, come morta, imbalsamata. Già i suoi movimenti erano divenuti più pigri. A sonno, spiegava Augusta con voce pietosa, quasi parlasse di una bambina. E le lucidava il guscio con una penna intinta nella brillantina, la teneva in mano con le zampe che annaspavano, poi diceva, tendendola alle amiche, «Sentite? È profumata adesso!» Ma poche vincevano il ribrezzo e la toccavano. Augusta la rimetteva in terra. Va, va, povera Margherita. Si udivano le dure unghie della testuggine battere sull'impiantito. Le ragazze salirono da lei già tardi. La luce era spenta. La trovarono che leggeva, placida. Sembrava avesse il tavolino sui ginocchi. Vedendola entrare si alzò, dignitosa. Le ricevette come per una visita ufficiale. Le altre, rumorosamente, si buttarono sul letto come su un'altalena. Silvia si sedette per terra, passando la mano sul tappeto come su una bestia viva. Augusta, tratto un sacchetto dal comodino, offriva caramelle. In ogni suo gesto c'era una composta solennità. «È freddo», disse Anna, «molto freddo. Come sarebbe bello se questa tua stanza fosse una grande cucina», esclamò Silvia. «Castagne sul fuoco e una vecchia serva che racconti. La nostra conosce terribili storie di quando c'erano ancora i briganti. In fondo è un peccato che non ci siano più briganti. Non ci sono più avventure. Io, se fossi vissuta a quel tempo, avrei voluto sposarne uno. Con il tuo carattere, ti avrebbe governata con la frusta. Avrei preso anche quella». Augusta fece, scuotendo la testa. «Parlate del matrimonio con troppa leggerezza». Valentina prese a parlare, disse che si sciupavano tutte le serate in baldoria, in chiacchiere, senza concludere nulla. Poi a luglio nottate, rossi d'uovo, esaurimento nervoso. Hai ragione. E Augusta propose, domani sera si potrebbe fare una seduta di spiritismo. Sei pazza? Perché pazza? Rispose. Da molto tempo ci penso. Io le facevo spesso al paese. Un tavolino a 3 gambe, tutti vi appoggiano sopra le mani, il tavolino bussa, ogni colpo una lettera. Ma è proibito dalla religione? Interruppe Anna. Oh, tante cose, obiettò Vinca, sono proibite. Augusta era decisa. Domani sera allora, eh? Ma Valentina tornò a ribellarsi. Io non vengo. E tu, Emanuela, cosa decidi? Quella rispose ridendo. 8 per 1, 1 per 8, anche tu devi venire. Non hai paura? Emanuela esitò, poi rispose: No, non aveva più paura, non faceva nulla di male, nulla di male. E poi anche il coraggio è un'abitudine. Tutto sta nel vincere la prima impressione. Adesso girava nei corridoi, sicura, nel buio. Era forse lo studio a darle questa sicurezza, la certezza che la sua vita ormai si era fatta simile alla vita delle altre. La sensazione che il passato si fosse dissolto in lei, fosse svanito. E questa intima sensazione si rifletteva nel suo aspetto esteriore. Portava come le altre i tacchi bassi, i vestiti di lana, viveva come a 18 anni, dimostrava 18 anni. Silvia ripeté pensierosa: 8 per 1, 1 per 8. Per quanto tempo? Un anno, 2 anni? Oh, se almeno uscissimo di qua tutte insieme e non si sentisse il vuoto di quella che se ne va come per una morte. Siamo tutte legate adesso. Ogni avvenimento è comune. Se ho un taglio alla mano, lo sapete, se ho mal di capo o se ho paura dell'esame. Insieme dal mattino alla sera. E poi, tra 1, 2, 3 anni, l'una non ricorderà più il nome dell'altra. Oh, è impossibile, fece Manuela. È possibile, ribatté Augusta. Eppure qui ci siamo scelte tra tante, si direbbe per autentica affinità. Ma è soltanto la familiarità continuata di ogni giorno che ci lega. Appena questa cade, si scava fra di noi un'incolmabile distanza. Senti, l'anno scorso è andata via una di qui. Ha sposato, una di quelle che divideva ogni ora con noi. Neppure una cartolina ha mandato. Eppure aveva promesso che... A sposare è un'altra cosa, Valentina soggiunse. È passare all'altra sponda. Che cosa avrebbe più da dire a noi altre? Silvia disse, io non mi sposerò mai. E il brigante? Appunto, perché briganti non ce ne sono più, assentì ridendo. Augusta di nuovo porgeva alle amiche il sacchetto delle caramelle. Emanuela le chiese sottovoce, quanti esami devi dare? E quella ebbe un gesto evasivo. La porta si aprì piano, entrò Xenia e subito Valentina le domandò, dove stavi? Ti ho cercata, la tua camera era chiusa a chiave. Xenia non rispondeva. Pallida, i grandi occhi immobili, le narici arrossate dal pianto. Xenia, che hai fatto? Xenia, rispondi, Xenia. Gli occhi fermi nel vuoto. La ragazza spiegò infine con voce incolore. Oggi ho dato la tesi. È andata male. La tesi? Ma se dovevi darla dopodomani? Vi ho detto una bugia. Non volevo che veniste nell'aula. Avevo paura. Paura perfino di aspettare con voi il momento di rientrare a sentire il risultato. Paura di dirlo a noi? Sì, è andata male. L'aspettiamo a marzo, mi ha detto Trecca. Tu non me lo perdoni, vero Silvia, di aver fatto fiasco? Non è questo. Noi, e accentuò questa parola, noi avremmo voluto esserti vicine. Noi non ti perdoniamo la bugia. D'impeto Emanuela corse verso Xenia e l'abbracciò. Non ascoltarla, Xenia, non guardare così fisso, dici, e i tuoi genitori? Ah, tu hai capito, tu, che vuoi che facciano i miei genitori? Devo tornare a casa. Piangendo si strinse all'amica. E non ci torno mai più, mai più. Piuttosto, vedi, piuttosto m'ammazzo. Xenia, esclamò Anna. E per un momento fu silenzio attorno al pianto accorato della ragazza. Siediti, siediti, calmati. Ci sarà un rimedio. Ti lasceranno qui fino a marzo. Xenia scuoteva la testa. Non è possibile. Non hanno soldi, neanche un soldo, per farmi studiare. Papà ha fatto l'ipoteca sulla vigna. Valeva la pena. Diranno al paese e rideranno tutti. Ma non ci torno. La soddisfazione non gliela do. E ricominciava a piangere. Che colpa ne ho io? Ho fatto tutto quello che ho potuto. Al mattino voi dormivate, io mi alzavo. Quando sentivo la prima campana delle suore, Trecca si lisciava i baffi. L'aspettiamo a marzo, signorina Costantini. Poi ha guardato l'orologio. Forse aveva fame. Cane, cane, assassino! S'arrestò perché i singhiozzi la soffocavano e riprese accorata. Non posso rimanere neppure un giorno. È impossibile. È giusto. I miei hanno mangiato patate tutto l'anno per tenermi qui. La colpa è mia, capite? E si batteva la fronte con la mano aperta. Mia, mia! Le altre sbigottite non trovavano parole. Ed un tratto Xenia smise di piangere e fece: Perdonatemi, perdonatemi tutte, scusate, che stavate facendo? Studiavate, vero? Si sentiva in questa domanda tanto rimpianto che Augusta rispose: No, no, si parlava. Siediti, prendi la mia sedia, siediti qui con noi. Xenia rifiutò con gentilezza: No. Scusatemi, ma non ho voglia di chiacchierare. Sono salita un momento soltanto per informarvi di questa rovina. Sto già meglio adesso, ritorno in camera mia. Sola? Fece Emanuela. Non è possibile, io vengo con te. No, ti prego, Emanuela, no. Ho bisogno, molto bisogno di stare sola. Agitata così, non è possibile. Non aver paura, non salto dalla finestra. Ci ho pensato, ma sono vigliacca. Vado a dormire. Ma forse stavolta, che potrei dormire fino a mezzogiorno, non dormirò. Con un gesto salutò in giro, alta. Il suo viso quasi non si vedeva, era al di sopra del cerchio di chiarità della lampada. Tutte sentivano, che avrebbero dovuto accompagnarla, confortarla, e però non sapevano che cosa dirle. Rimasero lì pensando: vado, non vado. Attendendo ognuna che l'altra si muovesse, e in questa loro incertezza, Xenia aveva aperto la porta ed era scomparsa. Il giorno dopo erano tutte mogie. Finora nessuna aveva pensato di poter fallire la tesi, e ora la faccia stravolta di Xenia metteva timori nel cuore di tutte. Alla lezione di Belluzzi neppure sedettero vicine. Si ritrovarono all'uscita, si riunirono in crocchio, solo Emanuela, che era venuta con Silvia, sorrise alle altre e fece allegramente: «Guardate un po' che ho ricevuto!» E tese loro un biglietto. Lo lessero tutte, curiose, qualcuna per le scale dell'università, certe nel portone. Non si contentavano di udirlo leggere da un'altra, volevano vedere la scrittura, la firma. E col nuovo avvenimento sembravano avere ritrovato l'allegria. «Vacci, vacci!» consigliavano. Silvia pregava: «Non la tormentate così, deve fare quello che vuole!» E Anna: «Hai ragione, io dico soltanto che è un ragazzo intelligente, serio, attento, non ha mai scherzato con nessuna!» Emanuela camminava, quasi sospinta dalle altre che le si serravano intorno. Era incerta. «Non so che farò, mi sembra strano andare.» «Però ne hai voglia, confessa che ne hai voglia.» «E che c'è di male?» insisteva Vinca. «Non è uno sconosciuto, è amico nostro, collega. Te l'abbiamo presentato. Ogni volta che venivi alle lezioni gli hai parlato.» «Beh, va bene, ma...» L'appuntamento era per la sera dopo alle 6, davanti alla fontana del Mosè, al Pincio. Emanuela avrebbe voluto andare, arrivare 5 minuti in ritardo per dargli un po' di trepidazione, facendogli pensare che non sarebbe venuta. Presentarsi uscendo dal vialetto, aspettare che gli parlasse, spiegasse. L'Anziani, un ragazzo di ingegno, ma soprattutto la traeva quell'attesa fino a domani. Presentarsi fresca nel vestito grigio. Benissimo. Augusta le diceva sempre: l'essenziale nella vita è avere un'attesa. E lei, seduta dietro il tavolinetto, grassa, coi fili bianchi nei capelli, aspettava chissà che. Vacci, vacci! Parlando, ridendo, svegliarono col loro ingresso il freddo collegio. Il pavimento ovunque nell'istituto era a quadri bianchi e neri. Nelle alte pareti grigie si aprivano lunghi finestroni per metà opachi perché non ci si potesse invogliare del mondo di fuori. Le ragazze entrarono briosamente nel refettorio. Dai finestroni si vedeva il cortile, ornato da rigidi bambù e palme basse. Soltanto in un angolo, dove al mattino cadeva un raggio di sole, c'era un gruppetto di vasi di geranio. Molte ragazze erano già a tavola. Si udiva il represso brusio delle voci, lo smuoversi delle posate. Nel fondo del refettorio, suor Lorenza attendeva a scodellare. Le amiche presero i loro posti ridendo, niente affatto preoccupate della suora che era rimasta col mestolo a mezz'aria, la fronte corrugata. Spiegarono i tovaglioli, si versarono l'acqua, il vino, parlando forte. Al posto di Manuela, una lettera era appoggiata al bicchiere. Veniva da Firenze. Una lettera di papà. Ne riconosceva la minuta calligrafia. Smise di ridere e dette un'occhiata in giro per vedere se le altre avessero notato il timbro, seguito i suoi gesti. Ma le compagne erano distratte. Stavano raccontando ad Augusta il fatto del biglietto di Lanziani. «Fatelo leggere, lei non vuole andarci, figurati!» Intanto Emanuela aveva aperto la lettera, dopo averla scorsa in fretta la richiuse, attenta che nessuno avesse letto nel foglio con lei. Le compagne non debbono sapere che papà è a Firenze. Papà è in America, ritornerà a primavera. Valentina le chiese: «Beh, hai deciso, Emanuela?» «Sì, ho deciso, non ci vado.» Augusta le domandò: «Fammi leggere la lettera.» «Quale?» «Ah, che pensi, quella di Lanziani, no?» Emanuela gliela tese. E dopo essersi assicurata che le compagne non la osservavano, riaprì quella di suo padre, la rilesse e diceva: «Domenica, se vuoi, puoi andare a trovare la bambina.» La domenica era per il collegio come un grande sbadiglio. Le ragazze si svegliavano di buon'ora, per abitudine, istintivamente facevano per gettarsi giù dal letto, poi ricordavano: «Ah, è festa!» e si lasciavano scivolare di nuovo nel tepore a poltrire. Ma avevano la sensazione di rubare quell'ora, perciò finivano con l'alzarsi presto lo stesso. A una le finestre si aprivano, le Le ragazze s'affacciavano e parlavano tra di loro del programma della giornata prima ancora di lavarsi la faccia. Emanuela era pigra, è domenica oggi, pensava, e anche lei si sentiva liberata dal peso della settimana. Di domenica il cielo le appariva più limpido. Voci partivano dalle finestre chiamandola. Lei infine rispondeva, andava alla finestra, cercava le compagne con gli occhi. Augusta soltanto non s'affacciava. La domenica usciva per tempo al mattino a comprare fiori per la camera, la lattuga per Margherita, poi cambiava i centri sardi sui mobili, spolverava i libri diligente. Una ragazza di giudizio, dicevano le suore. Le compagne pensavano che ormai giovanissima non era più, negli studi non riusciva, avrebbe potuto farsi suora anche lei. Quando le dicevano, quasi ridendo, ella scrollava il capo, offesa, e ribatteva: «Oh, ben altro per la testa!» «Che fai oggi, Emanuela?» «Sto con voi, che facciamo?» Rimanevano incerte, affacciate su quel giorno di vacanza obbligata, e non sapevano come fare a divertirsi in una città estranea, nella quale le sole cose consuete e amiche erano lo studio e il collegio. Emanuela le scoteva da questa loro timidezza, pensava un poco, poi decideva: oggi andiamo a vedere le scimmie allo zoo, oppure al cinema, pago io. E le altre approvavano con entusiasmo. Quella domenica invece rispose: oggi ho da fare. Valentina le chiese: hai avuto un altro biglietto di Lanziani? Oh, no, no, è un'altra cosa, è una parente. Xenia, che si limava le unghie, disse, senza alzare gli occhi: però se ti piaceva hai fatto male a non andare. Emanuela parlò d'altro volutamente. Il giorno prima aveva seguito minuto per minuto l'attesa del ragazzo vicino alla fontana del Mosè. Sul principio si sarà distratto guardando i giochi dei bambini che mettevano le barche nella vasca. Avrà pensato a qualche suo veliero di infanzia. Poi avrà cominciato a guardare l'orologio di frequente, sempre più di frequente. A poco avrà visto le possibilità diminuire e svanire. Infine avrà preso il cammino del ritorno. Chissà dove abitava Lanziani, e la sera non avrà studiato volentieri, ma ormai lei non si rammaricava più di nulla, attendeva che qualcosa accadesse. Disse, perché le altre non notassero la sua preoccupazione: fa bene ogni tanto la domenica, e si divagò seguendo alcune nuvolette diafane che si stracciavano al sole. Ormai è sempre domenica per me, Xenia disse. Era calma. Al mattino, svegliandosi, si era messa a cantare. Suonò la prima campana. Avevano mezz'ora soltanto per prepararsi. Si ritrassero dalle finestre facendo affrettati cenni di saluto e dalle camere venne rumore di acqua e di brocche. Scesero poi tutte pettinate, odorose di pulito, incontravano altre compagne, si salutavano con aria di festa, si prendevano sotto braccio giocondamente. Scendevano le scale in fretta, attratte da quell'odore di caffè latte e pane fresco, un odore mattinale e invitante che saliva non si sa come dalle scale, dai cortili, un odore proprio di collegio e di scuola, che mai più avrebbero sentito passati quegli anni. E annusando uno stimolo di fame allo stomaco, scesero, fluirono nel refettorio, si sedettero innanzi alle bianche ciotole, strizzarono nelle mani il pane crocchiante. Tutte meno Anna. Lei al mattino della domenica sempre usciva presto, aveva un piccolo cappello nero con un mazzetto di fiori che tremavano sull'ala. Prendeva il tram, si recava nei quartieri vecchi dove c'era mercato. Le dispiaceva che il collegio fosse in un quartiere elegante, le sarebbe piaciuto, come al suo paese, in Puglia, abitare in campagna e poi, semplicemente vestita, scendere per la strada, prendere parte alla vita di essa. Questa era la sua vita e la sua vacanza. Stanca dei bei libri, adesso ascoltava i dialoghi semplici della strada, ma era umiliata di non essere conosciuta da nessuno, di sentirsi forestiera. Certe donnette al mercato rivoltolavano per ore le castagne arrosto sulla brace, lei ne comperava e indugiava parlando con la venditrice. Quella neppure alzava la testa per guardarla. «Eh sì, è freddo», rispondeva, mettendo le castagne sulla palma della mano che vedeva tesa, 6 soldi di castagne. Anna le faceva scivolare nella tasca del cappotto e andava a mangiarsele affacciata al parapetto del Tevere. Il fiume scorreva lento, greve, mota gialla sembrava invece d'acqua, le sponde erano brevi e spoglie. Anna sgranocchiava le castagne, mangiandone l'odore piuttosto. Godendo di quel caldo tra le mani, guardava il fiume andare pacifico alla sua meta e pensava a sé. Incontro c'erano vecchie case povere, coi balconcini guarniti di fiori. Sopra il cielo era nitido, pieno di confidenza domenicale. Un anno ancora, poi sarebbe tornata al paese col pezzetto di carta nella valigia da mostrare a papà e mamma. Avrebbe potuto alzarsi presto al mattino e scendere nei prati, senza l'inutile ingombro del cappello. Poi a sera, aprire la finestra e annaffiare con un annaffiatoio verde piccolo così tutti i fiori del davanzale. Così, sognando, passava il tempo e a mezzogiorno tutto il cielo si scuoteva in un fragore di campane. Anche il fiume sembrava cogliere quel suono. Il mercato s'andava spogliando. Già la città piombava nel tedio della festa. Anna allora, impigrita, cercava nella tasca del cappotto. Non c'è più neppure una castagna, peccato. Sentiva che tirava un venticello rigido e prendeva a camminare, passando per le vie più strette. Tornava al collegio. Quella domenica, rientrando, trovò le compagne che complottavano. Stasera, dicevano, stasera, in camera di Vinca. Ma Vinca si opponeva. Intanto io non ce l'ho il tavolino a tre gambe. E poi, se lo spirito viene tra le mie pareti, dopo chi me lo caccia? Perché chi lo caccia? Sì, e così dicono da noi. Quando lo spirito scende, si impossessa del tavolo e non lo abbandona più. Prende asilo nella casa. Bisogna chiamare quelle donne che sanno le parole magiche per fugarlo. In Spagna, questo, diceva Augusta, ma qui, insomma, stasera si fa lo spiritismo. Xenia ripeté, stasera? E restò pensierosa. Poi si volse a Emanuele e le chiese bruscamente, tu esci, vero, oggi? Eh sì, rispose imbarazzata, perché mi chiedi questo? Oh, nulla, nulla, così, dicevo. Se volete, Anna fece conciliante, potete venire in camera mia. Soddisfatte, le ragazze si sciolsero sul pianerottolo di Emanuela e Milly. Le altre salirono, ripetendosi l'appuntamento per la sera. Al 58 allora da Anna. E s'allontanarono per le scale. Dinanzi alla camera di Emanuela, Milly prese l'amica per il braccio, chiedendole: perché vai a questa seduta? Quelle sono fanatiche. Dopo avrai ancora più paura a scendere. Oh, non sai? Non ho paura più. Erano i primi giorni, come tu dicevi. E dopo averla salutata, entrò nella sua camera. La finestra era aperta ed Emanuela rabbrividì, chiuse i vetri e lenta cominciò a svestirsi. Si rivestì con attenta cura, come da tempo non faceva. Si scelse un vestito che non metteva da quando era in collegio, un vestito nero e un mantellino di pelliccia nero anch'esso. Così vestita pareva di qualche anno più vecchia, certo per quel veletto sugli occhi. La borsa, il denaro nella borsa, forse metterebbe anche lo smeraldo. Lo guardò, lo girò. No, non poteva metterlo. Da un pacco di carte che teneva chiuso nella valigia, trasse una fotografia, un uomo, un aviatore. La chiuse nella borsetta, guardò intorno. Tutto a posto, pensò, e uscì. Appena fuori sentì che tutta la spensieratezza della vita di collegio in un attimo s'era dispersa in lei. Si ritrovò chiusa in pene antiche, preoccupata, come se scendesse allora dal treno che da Firenze l'aveva condotta qui. Tante volte, quando era ancora a casa, aveva cercato di immaginare il collegio nel quale abitava Stefania. Temeva che fosse tetro e freddo. Era invece una villa bianca sul Monte Mario, in campagna, sotto un immenso arco di cielo. Il portoncino si aprì piano ed ella entrò in un grande atrio, dove c'erano statue sacre e piante di fucsia. Nel fondo del vestibolo si vedeva il verde aereo del giardino. Vorrei, Emanuela disse, vorrei la bambina Andori.